in onda Shabalon, un programma di Piazzalta di e con Enzo e Marcello, alla parte tecnica Simone, alle riprese video Valeria. Eria. Quarta puntata. Shabalon, quarta puntata in diretta dalla costa di San Rocco, in diretta per chi ci vede ora, in registrata per chi ci vede ora, però domani. E quindi vuol dire che non ci potete perdere. Salve, Enzo e Marcello. Simone chiaramente alla parte tecnica è anche il nostro selezionatore musicale, colui che compila le playlist che... Vabbè, ma non ci dilunghiamo oltre su questa cosa. Voglio dire, in settimana abbiamo turbato il sonno, sì, è vero, il sonno della nonna di Simone. Della nonna di Simone, per sapere, ancora non ci siamo trovati troppo d'accordo. E poi c'è Valeria che fa le riprese e che non potete vedere. Forse è l'unica cosa che era degna di essere vista. È un peccato tenerla dietro la telecamera. Allora abbiamo detto tutto di Valeria. Stasera sarà una puntata eccezionale, ma eccezionale veramente. È vero, sia per gli argomenti che per gli ospiti. Che per gli ospiti, ma prima mettiamo un po' di musica per gli amici che ascoltano in podcast. Allora, noi rimaniamo invece in diretta, come sempre, per chi ci guarda in video. A fra poco. Mi sono svegliato con il sole che mi accecava un occhio. Una città in riva al mare, ma la casa no, non la conosco. Fuori un caldo innaturale, riscaldamento globale, certo moriremo tutti, ma in infradito e Bermuda, dai, ci sta. Adesso sono dentro un treno, guardo gli altri passeggeri e penso che sarebbe bello chiacchierare, ma tutti hanno sempre da fare. Qualcuno guarda il cellulare, altri fanno finta di dormire, ed io vorrei vederlo deragliare, così potremo tutti urlare. Quando ero un ragazzo volevo fare una comune con le mie amiche e i miei amici in un grande casolare. Qualche anno dopo ci ho provato, ma non è andata un granché bene. Qualcuno poi si è innamorato, se n'è andato poi chi l'ha visto più. Adesso anch'io vivo da solo, certo è più che naturale. Mi ha detto prenditi un cane, non voglio fare da padrone, e non perché non sia in grado di prendermene cura, ma solo perché sono un gatto io, e un gatto padroni non ne ha. Una guerra mondiale ancora, per cominciare una nuova era, per capire chi è il nemico, per vederlo dritto in viso. Una guerra mondiale ancora, per vedere che fare. Gli amici Zen Circus, e lo posso dire con ragione perché abbiamo mangiato assieme sabato, ma loro non lo sapevano, loro perché eravamo all'autogrill, erano accanto a noi, ma non erano con noi, però stavamo mangiando insieme. Pensate, un gruppo che ha segnato le nostre infanzie, ma non perché le ultime annate sicuramente. Allora, intanto un saluto al presidente Farnetani che è appena arrivato in studio e ha rotto la sedia. Azione, ma di statica. Bellissimo. Intanto arrivano dei messaggi. Paolo Felice, elegante lo speaker stasera, e va, forse si riferiva a Marcello. E poi Stefano Giustini dice: approfittate per far addestrare Marcello. Devo dire che forse 6 mesi non saranno, non saranno sufficienti. Allora, faccio un attimo la parte seria. Quella seria, ma 2 secondi. Ok, potete seguire il programma ovviamente come lo state facendo, cioè in diretta Facebook oppure sul podcast, sempre sulla pagina di Piazzalta. Però, e quindi questo è quanto, basta. Siamo in diretta dalla costa di San Rocco e stasera abbiamo degli ospiti eccezionali e questo ve lo dice Marcello e quindi rovinerà tutto. Allora, abbiamo chiaramente un nostro concittadino illustre, Giuliano Giustini, e che è accompagnato stasera da Elena Ferroni. Perché sono qui? Perché noi, Enzo, abbiamo fatto degli appelli nelle puntate scorse perché chi voleva partecipare a Shabalon perché aveva delle cose da dire, delle cose da raccontare, delle cose da proporre, si poteva fare avanti. E chi è qui stasera proprio ha sfruttato questa cosa e quindi è un appello, quindi che è stato raccolto. Bravo, allora ora dico anche qualcosa di più. Insieme a rispondere alla domanda che ho fatto. Insieme a Giulia... Sarà dura, io l'avevo detto però che sarebbe stato difficile. Allora, insieme a Giuliano e a Elena abbiamo anche Zorro e Wanda. Zorro e Wanda sono 2 cani guida, se dico cose sbagliate ditemele, che sono ormai compagni fedeli sia di Giuliano che di Elena, perché Giuliano e Elena sono non vedenti, giusto? Puoi dire ciechi, eh? Ma io no, ma perché siccome c'era anche scritto ipovedenti, ho paura di fare confusione. Definiamo subito la differenza. Ecco, non c'è differenza tra ciechi e non vedenti. Addirittura la legge dice privi di vista, che è più bello. Ma perché infatti la lingua italiana è bellissima per questo, no? Lo stesso concetto con 40 vocaboli. Sì. Se no, ipovedenti sono quelli che hanno delle difficoltà visive. Che ci vedono poco, sono fortemente miopi, oppure nel mio caso di qualche anno fa, che la mia malattia prevedeva, insomma, era sul fatto che si restringeva il campo visivo piano piano, e alla fine si arrivava a vedere come da un buco di una chiave, di una serratura, insomma, ecco. E quello è l'ipovedente. Ok, allora facciamo così, perché siccome è un argomento serio e io e Marcello siamo i meno adatti di parlare di un argomento serio, voi ci perdonerete per questo, però proviamo comunque a parlarne. Iniziamo allora difficili. Con Elena Ferroni, ma non abbiamo detto le cose più importanti. Elena Ferroni è consigliere nazionale del UIC, cioè Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, nonché coordinatrice nazionale della Commissione Cani Guida. Facciamo parlare Elena un po'. Elena, ci vuoi raccontare un attimo un po' la tua storia, per come vuoi te, a brevi, in poche parole, così, tanto per inquadrarci, per sapere chi siamo. Dopo ti racconto la storia di Marcello, che è molto più molto triste. Molto più lunga e complicata, che è ancora in via di definizione. Va bene, l'ascolto volentieri perché non la conosco. Certo. No, ma non vorrei rattristarti. Va bene, allora comincio io intanto. No, niente, io come vi raccontavo già prima nasco ipovedente, quindi ho passato la fase che raccontava Giuliano, che ci vedevo poco, perché vedevo solo da un occhio. E poi a 25 anni invece ho perso completamente la vista per un distacco di retina e dopo un periodo in cui ho imparato a muovermi con il bastone bianco è arrivata Wanda. Perché a 25 anni, insomma, la vita è ancora... Ce n'è da farne, insomma, esatto, giustamente. Ce n'è da farla e quindi va ricostruita. Hai già detto una parola, per esempio, che io ho scoperto solo ieri l'altro, guardando un po' di cose, bastone bianco. Mm-hmm. Perché bastone bianco? Cioè, il bastone noi ce lo immaginiamo tutti, insomma, però perché si chiama proprio bianco? Perché è bianco? Perché? No. Sicuramente perché è bianco, sì. Questa la potevo dire io. È vero, questa era più da Marcello, scusate, ora sto zitto per 5 minuti. No, comunque seriamente è bianco perché è un segno di riconoscimento, cioè è proprio a livello internazionale. Il bastone bianco serve per riconoscere le persone non vedenti. Se voi incontrate per strada una persona con il bastone bianco, anche tipo per le macchine che passano, per esempio, no? Certo. Vedono la persona che attraversa con il bastone bianco, capiscono subito che è non vedente. per esempio ce n'è uno bianco invece con le strisce rosse che identifica le persone che non vedono e non sentono, però questi sono proprio riconosciuti dal codice della strada. E io non ne sapevo niente, quindi abbiamo imparato già qualcosa. Però attenzione, se posso intromettermi, da distinguere il bastone e quelli da appoggio, quelli normali che usano gli anziani, che sono bianchi, li usano gli anziani per farsi, magari per approfittare un pochino, ma i nostri bastoni sono un po' più lunghi, un po' più articolati. È vero, ora che mi fai pensare, sì, effettivamente sono un po' più lunghi. Anche tu, Giuliano, sei un coordinatore a livello regionale, se non sbaglio? No, coordinatore, io faccio parte della commissione regionale. Mentre la tua storia da vedente a non vedente qual è? Io ero vedente fino a una decina d'anni fa, vedente, abbastanza vedente, perché facevo l'aeromodellismo, perciò facevo volare gli aeroplani e poi facevo un sacco di cose. Piano piano mi si è accorciata la vista e non ci ho più visto. Fino ad arrivare a non vederci più, però il brutto è realizzare questa cosa qui, insomma. Io la volta che mi sono trovato più in difficoltà è stato, sembra una cavolata, però io suonavo nella banda. Sì, certo. E allora alla processione della Domenica di Pasqua di qualche anno fa, alla terza volta che io sono montato addosso a quello che avevo davanti, che era Arrigo Bignozzi, io mi sono ritirato perché non ce la facevo, mi sono reso conto proprio che non era più possibile. E allora lì mi sono messo da una parte. Ed è stata una cosa, sono passati anni che la famiglia, le mie figliole, i miei fratelli specialmente, che l'ho ritrovati in quel caso lì, l'ho ritrovati proprio come vicinanza familiare. Sì, esatto, mi stimolavano, e anche l'amico Franco Ginetti, ci ho dato una dentata, l'amico Franco Ginetti, il dottor Franco Ginetti, che una volta mi disse: muoviti, esci di casa, va a toccare il culo alle donne. E grandi stimoli, sì. Allora sì. Da allora cominciamo un po' a andare fuori, e con la Chiara, la figliola grande, che lei era... Che è qui con noi, lei è stata la mia mentore iniziale, cominciò a stimolarmi, a dire andiamo a vedere, e piano piano ho perso 2 anni, e dopo magari se ne può riparlare, certo. Per andare a cercare così inutilmente, senza sapere che c'era Luigi. Noi non lo sapevamo, e allora con la Chiara si andava un po' a tentoni. Ho trovato l'UIC, ho fatto le pratiche per la pensione, per il riconoscimento dell'invalidità, e poi dentro l'UIC ho conosciuto Elena, e lei è venuta da noi ad Arezzo perché lei fa parte dell'UIC di Siena di base, come perché lei è di Sinalunga. E è venuta ad Arezzo a insegnarci a usare l'iPhone. La tecnologia. Esatto. Io tutto quello che so fare, e so fare tante cose, con l'iPhone ci giro anche la pasta asciutta, tutto ci faccio. Però tutto quello che so fare me l'ha insegnato. Grazie Elena. Sì, infatti quando siamo usciti da questa riunione, la Chiara mi ha detto: babbo, si è aperto un mondo. Allora, da ora si parte. Cane, subito, certo. Cane. Certo, e infatti è qui sotto. Elena ci ha istradato sul come fare. Siamo andati all'Open Day a Scandicce, alla scuola dei cani guida, e ci siamo innamorati dei cani, però non è quella volta che ho visto Zorro. Quello lo raccontiamo dopo, se no diciamo tutto ora. Siamo andati a lei e la Chiara mi ha detto, la mia figliola mi ha detto: vai, si parte, vai, prendiamo il cane, e intanto però la Elena mi ha detto: guarda che per prendere il cane bisogna sapersi muovere, bisogna saper orientarsi, perché le musate che ho dato io, Dio solo lo sa, anche in casa, perché in casa non solo noi, ma anche i nostri parenti devono imparare a lasciare le porte o tutte aperte o tutte chiuse. O a non spostare la roba. Perché una porta mezza aperta la pigli nel muso, regolarmente. Senti, Elena, poi mai, a parte che secondo me è sempre difficile, voglio dire, però ritrovarsi, a che età è successo questo, Giuliano? È successo a 60 anni, io ero già in pensione. Quindi diciamo, è una cosa talmente grande che succede dopo una buona fetta di vita, che riuscire ad entrare in questa dimensione, insomma, penso sia difficoltoso. Infatti, se io penso quello che ho lasciato, che sarebbe un elenco lungo un chilometro e mezzo, io pescavo a mosca. Sì, perché poi tra l'altro ne facevi 100, 1000. Cantavo nella corale, suonavo nella banda, sono allenatore internazionale di pallavolo. E poi ne facevo di tutto e di più. Mollare tutto insieme, ogni cosa è un... E allora piano piano... Ti fa ancora più onore, però, perché insomma, Giuliano, mi sembra di aver capito che un po', diciamo, il momento in cui hai detto mi sono un po' messo da parte, però dopo hai capito che c'era comunque un'organizzazione, c'erano delle persone che avevano già affrontato questo tipo di problema, è stato un sollievo, insomma, è stato una riapertura. Poi trovare un gruppo di, siamo un gruppo di amici non vedenti. E col cane ci si ritrova, si fa mangiare insieme, ci si ritrova in vari posti. Siamo stati il 16 d'ottobre, c'è stata la giornata nazionale del cane guida a Lucca, ci siamo ritrovati tutti lì. E volevo chiedere, Elena, stiamo facendo l'intervento più lungo della nostra storia, siamo già a 13 minuti, ma vuol dire che ci sono cose da dire. Elena, mentre tu invece nel momento in cui... hai perso del tutto la vista, hai iniziato a interessarti ai cani, oppure già avevi visto qualcosa, sapevi che c'era qualcosa del genere? Sì. Allora, io avevo una cara amica quando facevo l'università che aveva il cane guida. Abbiamo fatto il primo anno di università insieme. Quindi in realtà io quando ho perso la vista sapevo che quella era una possibilità per muoversi, certo. Insomma. E appena è iniziato tutto il sono iniziate tutte le difficoltà, io ero già convinta, perché mi piacciono molto gli animali e quindi era, no, tra l'altro, una scelta obbligata. Questi cani sono bellissimi, ora sono qui che si riposano ai nostri piedi. Vedete anche la sensibilità del cane, che nonostante le nostre battute sono belli, tranquilli. Abituati a tutto. E infatti, allora facciamo così, mettiamo un altro po' di musica, noi rimaniamo in diretta video e poi continuiamo, anzi iniziamo a parlare veramente della storia di Elena Giuliano e dei loro cani, di Wanda e Zorro. Music. E svida sa gnosta vive, parodia di mot mache, se maca ma tu savura. E svida sa gnosta vive, parodia di mot mache, se maca ma tu savura. Angola, angolo e força, a minha escata mata, bem cuara pra manhã caminho. Angola, angolo e força, a minha escata mata, bem cuara pra manhã caminho. Es convivência, desnhos vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Es convivência, desnhos vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, angolo e força, a minha escata mata, bem cuara pra manhã caminho. Angola, angolo e força, a minha escata mata, bem cuara pra manhã caminho. niños scatta matando, bien cuore pa' no hay camino. Angola, angola y fuerza, a niños scatta matando, bien cuore pa' no hay camino. Es convivencia, desnios vivencia, paciencia con consecuencia, resistencia de extravagancia. Es convivencia, desnios vivencia, paciencia de una consecuencia, resistencia de una extravagancia. Angola, angola, y bolsa, a niños catamata, ven cuara pa' bañar camino. Angola, angola, y bolsa, a niños catamata, ven cuara pa' bañar camino. Angola, angola, y bolsa, a niños catamata, ven cuara pa' bañar camino. E rientriamo anche in diretta audio, che poi non ho mai capito se è una diretta audio o un pod, cioè, beh, comunque chi ci sta ascoltando in quel momento per lui è diretta. Questa è la Costa di San Rocco, questo è Shabalon, quello è Marcello, no, così Simone, Valeria che riprende, e siamo con Elena e Giuliano e stiamo parlando di un argomento troppo importante perché io e Marcello lo si tratti, quindi facciamo parlare esclusivamente i nostri ospiti. Insieme a Giuliano e a Elena abbiamo anche Wanda e Zorro, che sono due meraviglie, e vorrei fare subito una prima domanda. Ah, tra l'altro poi fra un po' parliamo anche di Fanta Chiana con Simone, sì, nella rubrica settimanale. La settimana c'è stato dei grandi attriti, delle grandi novità. È un fantacalcio che noi ormai stiamo seguendo cose inutili, perché non seguire il Fantachiana, per dire, no? Esatto. Oh, volevo fare subito una domanda, la facciamo a Elena. Ho visto che nella pettorina, grazie, di Zorro c'è il logo della Regione Toscana. Come mai? Perché la Regione Toscana in qualche modo dà una mano? Spiegacelo te, vai Elena, sto zitto, basta. Allora, senti, sì, sia Zorro che Wanda sono stati addestrati alla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci. Perfetto, e di questo ne parliamo. E questa scuola è finanziata praticamente quasi completamente dalla Regione Toscana. Ah, okay. E consegna cani in tutta Italia, e quindi giustamente sulla sua pettorina c'è il logo della Regione Toscana. Ecco, raccontaci un po' come funziona, veramente, noi che non ne sappiamo niente, la storia di come nasce un cane guida, come diventa un cane guida e poi come mai arriva a voi. È bellissimo, come prende il nome è bellissimo. Prego, dici. Allora, vabbè, un cane guida nasce in un allevamento e viene portato, generalmente l'allevamento è in collegamento con la scuola, ovviamente. Certo. Quindi nasce fisicamente in un allevamento e viene portato alla scuola. E in quella sede viene in qualche modo battezzato. Ecco. Come ogni cucciolata viene battezzata con una lettera dell'alfabeto. Infatti tutti i fratelli e le sorelle di Wanda iniziavano con la V, e tutti i fratelli e le sorelle di Zorro iniziavano con la Z. Tra l'altro Zorro, per chi ci ascolta solo in podcast, è completamente nero, quindi è il miglior nome che potesse avere. E quindi nascono e vengono portati, poi e entrano a far parte di questa scuola dove vengono addestrati. Esatto, vengono portati fino allo svezzamento dentro alla scuola con la mamma, e poi vengono invece consegnati a delle famiglie affidatarie, praticamente da Firenze ai dintorni di Firenze, cioè tutto un circuito di famiglie, per fortuna uno zoccolo duro, sì, che prende i cani per un anno, li tengono a casa e la scuola fornisce il cibo, le cure veterinarie, e loro li tengono e li fanno socializzare in tutti i luoghi possibili, nel senso che se li portano al supermercato, li portano in macchina, li portano in giro, per fargli vedere già da piccoli tutti i luoghi che possono incontrare poi quando andranno in addestramento. Certo. E dopo un anno di vita, niente, le persone che li hanno presi in affidamento fanno questo grandissimo atto di altruismo, perché li riportano alla scuola. Certo, è vero. Questa è una delle cose che mi ha colpito di più mentre cercavo di capire qualcosa. Dopo che cresci e hai un cane con te per un anno, lo devi lasciare, è veramente un atto di cuore. Sì, assolutamente sì. Cioè, loro lo sanno fin dall'inizio, certo. Ovviamente firmano, diciamo, una sorta di contratto, però rimane sempre... un conto è scriverlo l'anno prima e un conto è farlo l'anno dopo, esatto, sì. Esatto. esatto. E poi niente, da lì parte l'addestramento vero e proprio, che dura 6 mesi, e dopo questi 6 mesi viene fatto un abbinamento tra le persone non vedenti che ci sono in lista e i cani che sono addestrati. Generalmente sono 12, quindi 12 persone a cui verranno assegnati 12 cani, e a quel punto parte il corso di assegnazione. Sono 2 settimane che le persone non vedenti fanno alla scuola e vanno proprio a prendere il cane, e in quelle 2 settimane il cane passa dalla mano dell'addestratore alla persona che poi lo terrà con sé per tutta la vita. Ecco, io quando mi avete detto 2 settimane, sinceramente sono rimasto male, perché pensavo fosse molto più lunga la trafila per abituarsi a farsi guidare dal cane, eccetera. Invece è molto rapida la cosa. Sì, in realtà sì, perché il cane in potenza sa fare già tutto quello che deve fare, nel senso che l'ha imparato con l'addestratore. Certo. E quello che si deve sviluppare è poi la sintonia con la persona non vedente, ma quella si svilupperà poi quando andranno a casa. Cioè, certo. I comandi base, per imparare i comandi base e le cose fondamentali bastano quei 15 giorni. Poi... No, ti devo fare delle domande stupide, sennò il livello si alza troppo e dopo rischiamo di perdere degli ascoltatori. No, perché infatti ci sono degli ascoltatori che non sono abituati, insomma, a questo livello. Quindi dobbiamo abbassarlo. Ecco, già me la sono scordata, però aspetta. Però era stupida, giuro, eh. Ce l'ho, aspetta, ce l'ho, applausi. C'ho anche il cartello con scritto applausi per invitare a fare l'applauso. No, volevo chiedere, non me lo ricordo. Poi, aspetta. Però falla a te, Marcello, una domanda, perché io mi sono completamente dimenticato. Ho una curiosità che precede un po' quello che poi sicuramente Giuliano ci dirà. Ma ha detto Elena, i cani vengono portati a casa. Ma i cani guida aiutano anche all'interno delle mura domestiche? Cioè nella vostra vita? Aiuta per come si dice, per il morale e basta. Però per ecco, resto la funzione principale del cane guida è all'esterno delle mura domestiche. Esatto. Ecco, siccome ripeto, in questi giorni ho provato a capire qualcosa di più, non sapevo assolutamente niente se non aver visto Giuliano in giro con Zorro, ecco, e basta, questa era la mia conoscenza, finiva lì. Però ho letto che ci sono delle difficoltà. Per esempio, in ancora, nonostante voglio dire che siano dei cani guida, avete delle difficoltà con i cani in alcuni luoghi, in alcune, non so, posti pubblici, e a poter entrare, eccetera. Se vuoi puoi leggere anche queste cose qui, che sono, sono cose interessanti. Credo. Allora, lo leggo. Ah, questi sono i cartellini. Allora, il tesserino di identificazione del cane guida, assegnato al signor, posso leggere tutto? Giuliano Giustini, nato il 25 giugno 48, il cane di razza Labrador. Ecco, il Labrador è quello più portato, io mi ricordo i pastori tedeschi, se ne parlava qualche anno fa, o sbaglio? Sì, no, prima usavano pastori tedeschi, poi è l'evoluzione della razza, che hanno cercato di evolvere la razza nella bellezza più che nell'intelligenza, nel cane che è bilanciato, che sta, certo. Che è tranquillo. Allora poi il pastore tedesco cominciava a essere un po' geloso del padrone, perché uno gli si avvicinava e lui lo difendeva subito. Questo poteva essere un problema effettivamente. E allora poi anche l'evoluzione della razza, se avete fatto caso, voi che le vedete ora, i pastori tedeschi sono bellissimi perché hanno il di dietro abbassato, e quello porta alla displasia dell'anca, certo. Non ci portano più a noi poi dopo un po' di tempo, certo. E il Labrador è più indicato, cioè insieme al Labrador c'è anche il Golden Retriever, che è il cugino del Labrador, certo. Continuo a leggere un attimo il tesserino che mi hai dato. Praticamente abbiamo Zorro, che è un Labrador maschio, è nato il 22 marzo 2013, e qui c'è scritto: in possesso dell'intestatario della presente, proviene dalla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci ed è regolarmente addestrato. Ok, poi il cane guida è ammesso gratuitamente su ogni mezzo di trasporto pubblico e ha diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico, quindi teoricamente ovunque. Sì, teoricamente. Chi vi fa dei problemi lo fa o perché è ignorante o perché sbaglia comunque. Certo, è parecchio per ignoranza, sì. Parecchio per ignoranza. Poi certi sbagliano, come l'ultimo caso che c'è stato a Rimini. Elena ce lo potrà, l'ha vissuto in prima persona, perché lei è come coordinatrice nazionale se ne è occupata specialmente. C'è stato un albergatore che non ne ha voluto sapere assolutamente di fare entrare, di ospitare un cane. Cioè, hanno fatto addirittura anche un sit-in, hanno fatto un... Insomma, poi Elena ci racconta meglio. Allora Marcello, poi... Sì, allora no, semplicemente che questa signora aveva fatto la prenotazione in questo albergo e l'albergatore non voleva i cani guida. Allora abbiamo cercato di dare risalto alla notizia con vari articoli di stampa e poi, come diceva Giuliano, comunque è stato fatto un sit-in davanti all'albergo e dopo questo sit-in, diciamo, questo furfante di albergatore è andato addirittura a scovare le allergie. Ha detto che lui vuole essere un albergo pet free, che senza animali, e che quindi difende gli allergici e gli asmatici. Che nobiltà d'uomo che... Il cane non dà allergie. Poi... Vabbè, no, come poi sfondate una porta aperta, io vivrei in mezzo... Il bello è che quando qualcuno ti cerca... di fermarti per esempio all'ospedale e gli dicono madonna, ma il cane, avete ragione, potrebbe prendere tante malattie. Meraviglioso, diciamo, forse è più l'intelligenza che dà allergia, la mancanza l'intelligenza del cane dà allergia a determinate persone. Sì, questo può essere. Però a questo punto ci facciamo raccontare, io questa è curiosità, le vostre prime esperienze con il cane, voglio dire, perché Giuliano ce n'ha, Elena non ci ha ancora detto niente, ma anche Elena, se ha voglia, ce le può raccontare. Inizia Giuliano. Siamo stati con la Chiara all'Open Day a Scandicci e poi ci siamo andati, intanto ho fatto questo famoso corso di orientamento e mobilità con una bravissima insegnante che si chiama Laura Corsi, il nome lo posso fare? Lei ci ha fatto. Ma voleva essere sicuro che se l'avesse fatto era giusto, no? Lei praticamente, da dare le musate nel muro, mi ha fatto andare a Arezzo, siamo andati ad Arezzo, mi ha portato in cima al corso e mi ha detto vai, ora ci si ritrova alla stazione. E io da solo, tranquillamente, con il bastone, mi ha insegnato tutto a muovermi col bastone, che era la cosa necessaria per poter prendere il cane. Siamo andati, si è fatta la domanda a Scandicci, a Scandicci mi hanno chiamato, mi hanno valutato e mi hanno rimandato a casa, perché non ero ancora tanto... Quindi la selezione è anche sulla persona, soprattutto... Loro hanno la responsabilità di chi consegnano il cane. Quindi non è così scontato, cioè non è che, anzi. Non è scontato per niente. Sì, infatti. Poi siamo andati ancora l'anno dopo sempre a Scandicci, quando a me mi hanno messo in lista e mi toccava grosso modo dopo la consegna dopo o quell'altra ancora. E siamo andati a Scandicci e c'era questa covata di canini, e c'era l'addestratrice dei cuccioli che si chiama Cristiana, me l'ha messo in braccio questo mi si è proprio abbandonato, dico questo è il mio cane, vai. gli ho fatto una corte strepitosa, perché no, però fino agli ultimi 5 minuti non sapevo se me lo davano, perché è una cosa seria quella. Però poi mi hanno detto, è arrivata l'addestratrice che si chiama Ludovica, che è venuta da me, mi ha detto ti presento il tuo compagno, e mi ha fatto un salto addosso, ha cominciato a leccarmi da tutte le parti, un casino ha fatto, e lì è nato il nostro... Certo, allora anche te Elena ci devi raccontare il tuo primo incontro, se no... È importante. Il primo incontro con il primo cane non si scorda mai. Certo, immagino proprio di sì. No, allora vabbè, anch'io, come dice Giuliano, sono andata a Scandicci e il primo pomeriggio non ce l'hanno consegnato il cane, perché ci hanno fatto aspettare, ci hanno fatto penare un po' perché mancava una ragazza e quindi ci hanno fatto aspettare un giorno. Però. Il secondo giorno ci hanno consegnato i cani e praticamente è arrivata la sua addestratrice, che è Ilaria, e mi fa ti presento, e non ha nemmeno finito di dire ti presento, che io praticamente avevo Wanda in braccio, che era seduta su una panchina e lei è proprio salita fisicamente, perché era abituata a farlo da piccolina a salire sulle panchine in braccio a me. E ho detto, Wanda. Ho detto, sì, Wanda, ma io ora ho 30 kg sopra, come la gestisco questo cane? Cioè, non avevo mai avuto un cane. Ho detto, ma come? Tra l'altro che Wanda ti sta dormendo sui piedi, ecco, questo, in questo momento. Come Zorro sui piedi di Giuliano, eh? Questo è meraviglioso. E tra un po' comincerà anche a russare. Forse voi non la sentite, ma... Già, vero? Sì, certo. Può essere un problema. Poi però... Ah sì, no, finisci, Elena, se c'è da finire. Comunque, dicevo, poi però... ed è uno dei motivi per cui siamo qua questa sera, oltre per raccontare un po' tutto, e anche in modo così leggero, per come è giusto che sia, siamo qui anche per raccontare un po' un appello che Giuliano vuol fare, e anche Elena, su quando noi incontriamo una persona non vedente con il cane, soprattutto se abbiamo un altro cane. Vi passo la parola. Chi inizia? Giuliano, Elena? Giuliano. No, Elena magari per fare dico così. Dico mezza parola io. Vai, vai Elena, vai, vai, vai. Vai. No. Vale. Allora, semplicemente, allora, intanto grazie perché questa è una possibilità di parlare di cani guida che non è scontata. Per noi è un onore. E poi qui da noi purtroppo non c'è la cultura del cane da lavoro. Il cane da lavoro è un cane che quando sta appunto lavorando come il cane guida, ma come altri tipi di cani di assistenza, non va disturbato. E quindi che cosa vuol dire? Ha iniziato a russare, lo dico sì. Così perché non lo sentono, ma noi sì. Sto stimolando. Banda. E quindi quando si incontra un cane da lavoro, diciamo che il buon senso vorrebbe che o ci si presenta in qualche modo, perché noi non vi vediamo, quindi parlare sarebbe una già buona qualcosa. Cosa. Hai ragione, diamo per scontato cose che effettivamente. Sì, oppure per esempio anche attraversare la strada e andare dall'altra parte quando è possibile, oppure mettersi un attimo di lato, dire guarda ci sono io con un cane, e noi in questo modo riusciamo a passare perché certo. Questi cani sono addestrati, ma insomma rimangono... Hanno sempre un istinto, voglio dire. Sì, no, ma è vero, no, ma è allucinante. Sì. No, dai, ora Giuliano vi fa qualche esempio. Giuliano del paese. No, ecco, io... Local! Parto, ecco, allora, parto da lontano, perché per farvi capire un po' quello che è la mentalità, insomma, l'intendimento della gente per i cani. Con la, se ave, voi vedete la maniglia, no? Quando sì. Vado con la maniglia col cane, e cioè sulla mano destra il guinzaglio, sulla mano sinistra la maniglia, perché con la destra posso correggere eventualmente se si ferma troppe volte a odorare le pipì da altri cani. Allora trovo incrocio una donnina che mi fa: oh porino, sto cane, o che ha fatto? L'ha messo sotto una macchina. Credeva che io con la maniglia lo tenessi su. Poi un'altra volta è dura effettivamente. Un'altra volta lì all'ospedale, alla casa della salute, aspettavo la visita, arriva un antromino che mi fa: che t'ha fatto sto cane? Niente, scappa, non aver paura, guarda come l'ho legato. Capito? E questa è la mentalità della gente che ci vede, capito? Se a me Zorro, quando attraverso tutte le mattine io vado al bar, ora concorrenza, sì, ma non importa, sì, certo. Vado in pasticceria tutte le mattine, perché mi rimane facile. Certo. E vado a fare colazione, e attraverso, riattraverso, se Zorro mi vede un canino, magari si volta qua e là, ecco, vedi che cane è, un nubidisce. Addirittura le critiche dall'esterno. Siamo tutti allenatori anche di cani, non c'è anche lì. Sempre per quella stradina stretta che faccio normalmente lì, io la chiamo la strada di Tito, sì. È quella che va lì al... Sì, è una stradina del paese che va verso un parcheggio. C'era un furgoncino fermo perché c'erano i muratori e c'erano un posto stretto. Zorro, quando tutti i cani guida, quando arrivano a un ostacolo si fermano. Certo. Noi gli si dice vai tranquillo, il cane sceglie da quale parte deve andare. Dalla parte stretta c'era il muratore padrone del camioncino che faceva vieni, non aver paura, però stava lì nel mezzo, il cane vede che c'è l'ostacolo. Vede l'ostacolo, non mandava, no, ecco, vedi, non tubidisce manco per niente questo. Cioè, il brutto avrebbe suggerito anche di riportarlo e cambiarlo, esatto. Quell'altra signora qui Senti, questa è la banda. Si stanno riposando comunque, i cani. Enzo, se mi permetti, senti quante persone starebbero bene a Chabalon. Sì. In una serata un po' free. Quando quelle persone che ti vengono incontro e anziché stare da un lato della strada o avvertirti, come ha detto Elena, fammi un fischio, fammi un bercio, dici, ho il cane, e io mi fermo, dico a Zorro, seduto. Lui si ferma, passano tranquillamente e non mi dicono niente. Invece me lo mandano contro, o anche per fargli fare amicizia, ma mica lo sanno loro, no? Cioè, non si rendono conto del problema che vi creano. Che io ho la vita attaccata a lui, insomma. Certo. Se me lo confondono, e quella signora lì, sempre qui nel corso, io ero fuori dal negozio che aspettavo la mia moglie che mi portava fuori le magliette per misurarle, perché dentro ci potevo entrare, insomma, se no gli facevo un casino. E allora ero lì fermo con Zorro, sempre in guida, però lui seduto, tranquillo. Arriva una signora da quell'altra parte della strada e mi fa: senta, io ho un canino che abbaia e dovrei andare nel negozio. Dico: signore, sì, mi scanso, faccio per alzare Zorro. Su Zorro, alzo Zorro, lei si era già avviata con sto cane che... E Zorro mi stese completamente a pelle di leopardo. Le sbucciature e le croste le ho tenute un paio di mesi, da quanto ero conciato. Cioè, sono episodi che effettivamente fanno ridere, perché fanno ridere, però è un disagio grosso, insomma. Ma è bene superarle, sì, in questo, sì, modo, sì, qui, sì, perché senza dubbio. Poi se no, anche stamattina una signora, io sento Zorro che mi tira, perché ora comincia a essere un po' più paziente. Sì, sento che tira un pochino di più. Ha capito che Foiano è un paese così. Sì, si avvicina un pochino di più e sento che tira un po'. Zorro, che c'è? C'è qualche canino? E dopo qualche metro sento quello lì accanto e questa signora che fa: vieni qua. Ecco, signora, se me lo diceva 10 metri fa, non succedeva questa cosa qui, no? Se il cane mi butta per terra, poi che fa? La denuncio o gli dico dell'imbecille? Insomma. No, probabilmente siamo, e mi ci metto anch'io, dopo questa sera non sbaglierò, però forse hai l'idea di disturbare e invece in realtà non ci rendiamo conto che il danno è se non vi disturbiamo, cioè se non te lo dico. Ma parlare è la cosa più importante. Posso tornare indietro un pochino? Quando andavo col bastone, sì. Ecco, quando andavo col bastone io sempre andavo al bar, tanto, quando ero lì a attraversare, prendevo, sentivo il marciapiede, mettevo giù il bastone e sentivo di là e le tazzine del caffè e la gente che parlava. Quando vedono un cieco si zittano tutti. Oh ragazzi, andavo a sbattere il muso dal barbiere e non andavo dritto perché avevo perso il riferimento. Parlate gente. Allora, su questo appello ci fermiamo un attimo, perché un altro record abbiamo fatto, 20 minuti, non si sa più. Dopo parliamo un attimo del fantacalcio col fantachiana. Prima un po' di musica. And then your engine in the driveway cutting off. And I pushed through the screen door and I stood out on the porch thinking fight, fight, fight at all costs. But instead I let you in, just like I've always done. And I sat you down and offered you a beer. And across the kitchen table I fired several rounds, but you were still sitting there and smoke cleared. And you came crawling back to say that you wanna make good in the end. Oh, let me count the ways that I abhor you. And you were never a good lay, and you were never a good friend. What can I say? I adore you. All I need is my leather, one t-shirt and two socks. I keep my hands warm in your pockets. You can use the engine lock and we'll ride out to California. With my arms around your chest, and I'll pretend that this is real, cause this is what I like best. And you've been juggling two women like a stupid circus clown, telling us both we are the one. And maybe you can keep me from ever being happy, but you're not gonna stop me from having fun. So let's go before I change my mind. I'll leave the luggage, all your lies behind, cause I am bigger than everything that came before. You were never very kind, and you let me weigh down every time. Di Franco, Gravel, ti ho detto bene? Bravissimo. Siamo rientrati in onda anche in podcast, sempre Shabalon. Lasciamo un attimo gli amici Elena e Giuliano che ci stanno facendo, ci insegnano un sacco di cose, ma divertendoci sinceramente, veramente. E siamo all'angolo del Fantachiana. Se la nostra operatrice vuole inquadrare il logo, sì, perché che è stato anche fonte dopo, di grosse discussioni dopo la puntata della scorsa settimana, Enzo. I giorni a venire, no, i giorni passati sono stati veramente densi di polemiche e di, io direi, di veramente una situazione quasi incresciosa, perché si è creata una situazione difficile. Io, il presidente Farnetani, gli cedo un attimo la parola perché vorrei. No, allora facciamogli delle domande. Prima, volevi fargli proprio raccontare tutto? Lo volevo far salutare perché. Aspetta. Buonasera a tutti, come presidente dell'Orario Tinto Spa. Aspetta che ti do questo microfono qua. Questo qui, che non piace a Giancarlo. Sì, però vabbè, è quello senza fili. Vabbè, uguale. Presidente Farnetani. Sì, buonasera. Buonasera. La settimana ha visto tutte un po' le squadre. poi vi spiego, perché normalmente in italiano c'è soggetto, predicato verbale. Vai. Sì, ma se me lo ridai, mi interrompi, me lo ridai, io riconosco. Ma perché la Fantachiana è sempre così? Cioè. Dicevo? Per dire. Com'è? Come va? Come va? Abbastanza bene, diciamo così. Ma questo logo della Fantachiana? Ma io non ho visto nessuna polemica. C'è poi stata, forse verrà il presidente di Lega a spiegare. Okay. C'è, no, questo logo che è stato che presentato. C'è stato un grosso dissidio in settimana perché il logo sembrava che fosse un feticcio, ci fosse stato perpetrato un danno, un furto ai danni di un'altra società che aveva registrato preventivamente il logo. Mi è dispiace, così, non ma è devo, così. Devo rispondere in maniera categorica. Assolutamente no. Okay. Il logo della Fantachiana è unico e inequivocabile. Allora, dopo questa, bravo presidente Farnetani. Allora, diciamo un'altra cosa. Facciamo così: siccome la settimana scorsa abbiamo provato a presentare la Fantachiana, ma non ci siamo riusciti nel caos totale, no. Ora ti faccio delle domande secche, così vediamo, mi rispondi. Sono pronto. Innanzitutto, cos'è e perché nasce la Fantachiana? Partiamo proprio dall'inizio. La Fantachiana nasce perché il fantacalcio è in Italia dal 90. Nel 2016 ancora funziona come giochino fra amici, e la Fantachiana è nata perché eravamo sei, adesso otto chianini che volevano fare un fantacalcio chianino per andare a mangiare una pizza, ecco, una volta al mese. Lo scopo è, perché il campionato dura solo 5 domeniche. Sì, dura 5 giornate. Quindi in modo che ogni 5 domeniche ci sia da mangiare la pizza. Esatto. Se mi permetti, io, il presidente di Lega la scorsa settimana ha più volte reiteratamente detto che una delle motivazioni era quella di uscire di casa la sera. cioè sì. Questa è l'evoluzione un po' della Brisco. Bello che lui aveva anche altre cose diciamo il fantacalcio, la fantachiana è un po' come l'evoluzione di quella che una volta era il pallaro, il biliardo, ah. E questa è la versione romanticissima del fantacalcio. Noi siamo un pochino più pretti, un pochino più chianini, beh. Insomma. Però ecco, sì, l'obiettivo è quello, ecco, diciamo uno che... fra figlioli, perché siamo tutti gente che lavora, logicamente sembra forse che parlando di sta colata non si fa niente, ma invece esteticamente si dovrebbe fare, esatto, si lavora, abbiamo figlioli, figli, famiglie, una volta al mese ci troviamo per una pizza. Perfetto, e io vedo qui oggi il presidente ci ha portato anche sono dei gadget, sono dei testimonial della serietà, sì, sì. Dell'organizzazione del fantasma. Noi nel surreale facciamo le cose seriamente. Questa è una quindi come tutte le cose nascono con le squadre, fa il fantacalcio e poi da lì aumenta, tant'è vero che noi, non essendo una cavolata, fra virgolette, ci sarà elezione del presidente della Lega. E quindi ogni presidente che entrava faceva delle novità. Si partì col campionato e basta, poi da lì aumentò la Coppa Chiana, che è una coppa. Che eccola. Quest'anno, la novità 2016, è il gagliardetto della Coppa Italia. Questa è malattia vera. Sì, malattia vera, pura. Poi lo scudetto, questa è la Supercoppa di Chiana. Ora per gli amici che ascoltano in podcast, sì, se lo devono immaginare. E questa è la Champions Chiana, la Champions League. Siccome stasera siamo andati vero, la ride anche il camera, l'operatrice, pensate quanto è seria questa cosa, eh? No, ridono tutti. Ragazzi. No, ma in mezzo a questi trofei c'è il mondo, no? Nel senso, otto amici che si conoscono da 40 anni, si crea il surreale, per davvero. Dopo 40 anni uno può anche dire basta, insomma. No, perché? Rincoglionisce dopo i 40 anni e inizia a fare... No, diverte ancora di più perché nati sulle strade di Foiano, il centro storico, che sembra una cosa strana perché oggi è un pochino meno popolato di giovani, ma quando si era ragazzi noi qui c'era 7-8 gruppi di ragazzi di diverse età e giocavi a calcio, a qualsiasi cosa potevi inventare, giocavi. E anche Giuliano ce lo potrebbe dire. E Giuliano, infatti, anzi, con lo spirito che oggi ci starebbe proprio bene nella Fantachiana lui. È vero, è vero. Oh, siccome purtroppo stasera siamo andati lunghissimi, noi dovremmo fare un esperimento. Ce l'hai nel telefonino le classifiche? La classifica, sì. Perché qui ci sono cose serie comunque. No, serie no. Però si prova a fare cose serie. Cambiate ovviamente canale. Certo. Perché ovviamente, come dicevamo, ogni 5 domeniche finisce un campionato, sì. Il vincitore del campionato vince una cena, esatto. A cui partecipiamo tutti, Wanda si sta riposando, però vuol dire che si trova bene, che è a suo agio. Lei ha detto qui, faccio finta di dire, è meglio che dormo, perché ha detto se ascolto questi, è la fine. Allora, siccome con i nostri potenti mezzi la potevamo stampare, ma sarebbe stato troppo facile la classifica, sì, no, allora la facciamo vedere sul telefonino. Dicevamo, ogni 5 domeniche finisce un campionato, il vincitore vince, al vincitore gli viene offerta la scena dagli altri 7 e è la scusa per stare tutti insieme. Approfittiamo di leggere la classifica per dire anche i nomi delle squadre. In questo momento, nel terzo campionato, è in testa la No Lo Scivolo, di cui abbiamo provato a raccontare un po' i perché, ma andiamo avanti. La sua presenza che evidentemente che è stato trattenuto. Secondo, inaspettatamente, ma questo poi lo rispiegheremo meglio la prossima volta, Africa Bambata. Vabbè, un'annata stupenda però. Per lui. Terzo, Orario Tinto, che si è anche evidenziato. Che siamo noi. Quarto, immeritatamente, Tergi Lunotto, perché doveva essere primo. Proviamo a indovinare chi è la squadra. Ma la ribaltata 69 ha portato con qualche... Non è al pieno delle sue potenzialità. Tergi Lunotto è la squadra mia di Marcello, per chi non avesse capito. Quinta, Sibenik. Sesta, Attila. Settima, Ascicasse il Carnevale, per dire i nomi delle squadre, tanto per rimanere in tema, tra l'altro. E ultima, con immenso piacere, FC Ceno. Grazie. Sì, davvero, anche per noi. Immenso piacere. E se voleva dire il contrario, sarebbe venuto. E ora che si arriva al mercato, siccome si fa scambi fra società, non era semplice fare il mercato normale. Noi 10 scambi obbligatori tra società, come prestiti, con proprietà. La Ceno gratis è ultima e mi piacerebbe, come Orario Tinto, che ci rimanesse. Ma per tutti i campionati. Sì. Allora, ringraziamo il presidente Farnetani. Grazie a voi. Aspetta che faccio una cosa che mi scordo stasera di fare sempre. Io penso che in una ventina di puntate forse si comincia anche a capire qualche cosa. No, ma lo scopo è non far capire niente. Grazie. Questo è il cartello degli applausi. E posso, Enzo, prima di passare... Ora parla la coppa. Ah no, pensa... ha alzato la coppa, è il suo sogno. Che ore sono? Perché io mi sono perso completamente. Manca 4 minuti. Allora li facciamo tutti con Giuliano ed Elena. Allora, ci avete raccontato un po' appunto le situazioni per cui chi incontra una persona non vedente con il cane, lo ripetiamo, si deve far sentire. Deve continuare a fare, soprattutto chi è dentro al bar o prepara il almeno pranzo. Di continuare a fare il caffè, almeno la macchinetta. quei signori, che non sono tanti per fortuna, che si vantano di portarsi dietro il cane senza guinzaglio, per piacere mettetelo al guinzaglio, grazie. È vero, cioè, sembrano cose banali, ma a parte che il cane senza guinzaglio, indipendentemente, è sempre meglio evitarlo, ma insomma... Volevo fare una domanda, Elena. Te sei molto giovane e sei già responsabile nazionale della... Aspetta, che mi c'ho tutti i fogli, l'ho perso. Me l'hanno... Grazie. UICI. No, però la responsabile nazionale della... Coordinatrice nazionale della Commissione Cani Guida. Come mai così giovane hai già questo ruolo di prestigio? Beh, perché te lo meriti evidentemente, ma come hai fatto così velocemente? Ma forse perché sono l'unica persona in consiglio nazionale dell'associazione ad avere un cane guida. Quindi addirittura? Sì, perché non sembra, ma siamo una minoranza di una minoranza, nel senso è una scelta importante muoversi con il cane, e forse è anche per questo che insomma questa sera ci siete stati utili anche per iniziare a dirlo. Questo è un immenso piacere per noi, però voglio capire, cioè... Effettivamente non è che se ne vede tantissimi di cani guida, questo è vero, vi devo dare atto di questo. Esatto. Però pensavo che invece, ma te mi dici che è una scelta importante perché può essere problematica? Perché se ci pensi, un cane è comunque un impegno, cioè nel senso, il bastone bianco, è vero che con il bastone bianco ci si muove più lentamente o anche accompagnati, si deve stare sempre alle disposizioni della persona che ti accompagna, però il cane guida non lo metti all'attaccapanni come il bastone, è un impegno, è un essere vivente che va curato, che va portato fuori, che va spazzolato. Insomma, no, beh, senza dubbio. È prima di tutto un cane, quindi è... Ascoltavo che anche a me rimane un po' strano, dopo l'esperienza che ci hanno raccontato, che sembra veramente una cosa anche splendida da un punto di vista affettivo, no? L'incontro tra la persona e il cane guida, almeno per come ce l'avete raccontato voi, ci siano anche persone che preferiscono, io immaginavo che fosse... al di là della disponibilità dei cani che guida, che come hai raccontato non sono tantissimi. Quattro scuole in Italia quindi... consegnano pochi cani, insomma, non tantissimi. Certo. Quindi dicevo anche il fatto, anche io pensavo che fosse l'ambizione di ognuno avere il cane, invece in realtà non è così, è proprio una scelta voluta. E ma per esempio, qual è stata la vostra motivazione ad avere il cane guida? Cioè, perché voi invece siete indirizzati più al cane guida? Elena, iniziate, vai. Allora, io quando ho perso la vista facevo l'università e il cane guida mi serviva per muovermi più velocemente, perché comunque muoversi con il bastone bianco vuol dire andare a sbattere contro tutti gli ostacoli che ci sono intorno, no? Invece la funzione principale del cane guida è proprio il fatto che li evita gli ostacoli, li vede e li evita. E vi faccio un'altra domanda questa, Giuliano, ma tu sei completamente nelle sue mani, nelle sue zampe, quando è che... Cioè, hai fiducia dal primo giorno che ce l'hai, oppure arrivi a un giorno che ti accorgi che realmente in quel momento sei completamente in fiducia col cane? Io sì, è lui che non c'ha tante fiducia. Che si deve imporre. Ancora. Dunque, il cane guida conosce pochi comandi, però è addestrato a fare tante cose. Il cane guida conosce avanti, fermo, destra, sinistra, e poi... E gli si dice, lei gli dice zebra, gli dico strisce, ti trova le strisce pedonali, e ha il coso. Scusa, te gli dici zebra o strisce, e lui trova le strisce pedonali, le più vicine che vede. Va. Sì. Ma poi è un po' difficile perché sono tutte scancellate. Pensate, ma te guarda, non fa polemica. Saluto all'amministrazione, gli dici marciapiede. Lui, io quando dico marciapiede, mi porta al marciapiede, mette le zampe davanti sopra il marciapiede, io sento che si alza un pochino qui lei si ferma alle scale, le dico scale, lui mi porta le scale, lui si ferma lì, però ancora io sono un po' titubante, lui mi guarda e fa: cretino, sono qui le scale. Se io dico panchina, lui mi porta la panchina anche per il viale, a parte che c'è quello scalino che ci hanno fatto ora, che è musata, tranquilla, ma insomma, però mi porta davanti alla panchina e poi mi guarda e poi mi fa: ma è qui la panchina? E cerca col piede, cerca, capito? Ancora, però va bene, c'è un bel affiatamento. Invece Elena? No, hanno sempre ragione loro, no? Io mentre la raccontava Giuliano mi veniva in mente che io con Wanda faccio quasi tutte le mattine una risalita con le scale mobili per a Siena praticamente. Sì. E cosa succede? Che ci sono tutte queste scale mobili in successione che sono tipo 8. Ah, ok, sì, ho presente. Ok, sì. E ci sono delle volte in cui lei praticamente lascia la direttiva delle scale mobili e va sulle scale normali, no? E io tutte le volte: Wanda, ma perché fa così, Wanda? E la riporto di là e puntualmente ci sono i birilli davanti all'entrata della scala mobile perché è ferma, no? Quindi... cioè... Facciamo un applauso a Wanda e a Zorro, perché se lo meritano. Assolutamente. Poi quando riconoscono un pericolo, c'è una scala vicino sempre alla pasticceria dove vado io, che è lì vicino dove fanno le scommesse, che è una scala che va, che prende quasi tutto il marciapiede. Ah, sì, lascia okay. Uno spazio. Un tempo fa l'ho fatta venendo qua con spalle al viale, okay. È un po' ardita e ci sono inciampato e ci ho dato una musata. Da allora in poi Zorro mi arriva lì e mi si mette per traverso le scale fermo finché non gli dico tranquillo che ci sono, trovo quello spazio e si passa lì. Guarda, io vi viene una battuta che ho fatto tanti anni fa, molto più intelligente del mio fratello, non c'è niente da fare. Ma mio fratello mi vuole bene lo stesso e lo sa. Ma lo tiene anche a guinzaglio. Sì, sì, ma mi ci sta poco la pettorina. E poi l'ha detto anche Elena, ma lo voglio ripetere anch'io. Quando il cane nostro è a guinzaglio, è un cane. Signori, è un cane. E come tutti gli altri cani, abbaia, va con qua e là, muove la testa... E noi, io specialmente, a guinzaglio ce lo porto poco, solamente per fare la pipì e poi lo riporto o in casa, altrimenti lo tengo in guida. Quando è in guida è un cane che lavora, per cui non lo distraete, non venite lì a fare... E allora passando, quando sento questi pipì, allora gli faccio: Senti quel tato che chiama la sua sorella? Così spero che la prossima volta non lo rifaccia, insomma, capito? Ma io comunque credo che manchi veramente un'educazione per i vedenti, perché realmente, ti dico, ascoltandovi stasera, mi rendo conto che probabilmente se io se fossi passato vicino un altro giorno, magari una carezza gliel'avrei fatta anch'io, dandoti noia. Ma perché non c'è proprio un'informazione da questo punto di vista? E forse... cioè, io stasera sto imparando cose che... Sì. Ma gliela puoi fare la carezza, solo che magari l'errore è a non chiedermelo. No, esatto, capito? Esatto, sì, sì. Ma perché dai per scontato, vivendo da vedente, che il padrone ti vede mentre gli fai la carezza. E non gli date da mangiare, per cortesia. Al bar, il pezzetto di cornetto. Ah. Siccome c'hanno una faccia da cane bastonato, capito? E bene, voglio dargli un pezzetto di cornetto, non glielo date, per l'amor di Dio. Se no questi diventano quadrati anziché... Io, che, guarda, se avete qualcos'altro, è stato bellissimo, veramente. Se c'è qualcos'altro da dire, dimmelo, ditemelo Elena o Giuliano, che ne possiamo dire, altrimenti siamo arrivati alla fine. Ma se noi, per noi è stato utilissimo. Posso dire una... allora... quelli di Foiano, anche della zona, che sono in difficoltà visive, bravo, non si vergognino, vengano, domandino, e noi gli diamo le dritte giuste per uscire da questa cosa qui. Certo. Infatti la nostra associazione si chiama Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e poi si chiama anche la Commissione Cani Guida e Autonomia, perché noi ci occupiamo anche dell'autonomia. Ok. E un cieco deve essere autonomo come una persona normale. Certo. Assolutamente, tra l'altro, se può essere utile, per quello che può essere utile, se non trovate riferimenti potete mandarci anche un messaggio a noi, non solo stasera, anche nei prossimi giorni, e noi li rigireremo ovviamente a voi senza problemi. Ma ci mancherebbe altro. Allora, funziona? Sì, no, lo capisco, Giuliano, però c'è, è vero che non deve essere. A uno gli procurai un orologio di quelli che parlano, la volta dopo mi disse, oh, me l'hanno dato l'orologio, e lo cavo di tasca. Perché si vergognava di tenerla al polso. Vabbè, come hai raccontato te, Giuliano, magari all'inizio c'è un periodo in cui uno si deve un attimo anche certo. Un po'... Bellissimo. Ora finiamo, come sempre, le nostre trasmissioni con una frase intelligente di Marcello. Ora no, così... vedi, hai creato delle aspettative anche in Elena. No, ve la rimando alla prossima puntata, diciamo. Bellissima Elena, gli ha detto ti sto guardando, vedi, guarda, cioè, per dire, come tutte le volte la frase intelligente non è arrivata, però di almeno che abbiamo finito. Allora, grazie Giuliano, diamo l'appuntamento. Grazie Elena, grazie a voi per averci dato questa possibilità, questa opportunità. È stato veramente un piacere, grazie a Zorro e a Wanda, che sono meravigliosi. Grazie agli amici, ai genitori di Elena, alla figlia di Giuliano, che sono stati con noi, al presidente Farnetani, anche a Claudia, che era qui con noi, a Simone, a Valeria, a Marcello, anche a Enzo, dai. Vabbè. Aspetta che accendo tutto. Grazie ancora, ci rivediamo, ci risentiamo venerdì prossimo. Continuate a seguirci, vedete che noi facciamo degli spot ogni settimana, e ogni settimana, per farlo giusto, ne sbagliamo 12 o 13. Noi ve ne facciamo vedere solo uno fra quelli sbagliati. È una fatica immensa. Iniziamo il martedì mattina e, come vedete, ogni volta. Ma il duro lavoro premia, chiaramente. No? Assolutamente. Allora, faccio la sigla? Che bello. Vai con la musica. Avete ascoltato e visto Shabalon, un programma di Piazzalta di e con Enzo e Marcello. Alla conduzione tecnica Simone. Une. Alle riprese video Valeria. Eria. E poi c'erano anche Zorro. Orro. E Wanda. Anda. A venerdì prossimo. Ossimo.